54. Anolini alla parmigiana. Una signora di Parma, che non ho il bene di conoscere, andata a sposa a Milano, mi scrive: «Mi prendo la libertà di inviarle la ricetta di una minestra che a Parma, mia amata città natale, è di rito nelle solennità familiari. E non c'è casa, io credo, ove nei giorni di Natale e Pasqua non si facciano i tradizionali anolini». Mi dichiaro obbligato alla prefata signora, perché avendo messo in prova la detta minestra è riuscita di tale mia soddisfazione da poter rendermi grato al pubblico e all'inclita guarnigione. Dosi per una minestra sufficiente a 4-5 persone, magro di manzo nella coscia senz'osso, grammi 500, lardone circa grammi 20, burro grammi 50, un quarto di una cipolla mezzana, il pezzo della carne, steccatelo col lardone, legatelo e conditelo con sale, pepe e l'odore di spezie, poi mettetelo al fuoco in un vaso di terra o in una cazzaruola col burro e la cipolla tritata all'ingrosso per rosolarlo col detto burro. Fatto questo, versate due ramaiuoli di brodo nel vaso e chiudetelo con diversi fogli di carta tenuta ferma da una scodella contenente alquanto vino rosso. E perché poi vino e non acqua non lo sa spiegare neanche la detta signora. Ora fate bollire dolcemente la carne così preparata per 8 o 9 ore, onde ottenere 4 o 5 cucchiaiate di un sugo ristretto e saporito che passerete dal setaccio, strizzando bene, e che serverete per il giorno appresso. Allora formate il composto per riempire gli anolini con pan grattato di pane di un giorno, tostato leggermente, grammi 100, parmigiano grattato, grammi 50, odore di noce moscata, un uovo e il sugo della carne. Fate tutto un impasto omogeneo e tirando 3 uova di sfoglia, tenuta alquanto tenera, riempite il disco smerlato del numero 162 che ripiegherete in 2 per ottenere la forma di una piccola mezzaluna. Con questa dose ne otterrete un centinaio che saranno buoni in brodo o asciutti come i tortellini e riescono leggeri allo stomaco più di questi. La carne rimasta poi la mangerete sola o con un contorno d'erbaggi e figurerà come uno stracotto.